sì, finta alto lo capita di ghiaccio e jeans, sì. Non sai mai di niente, tu non ti scuoti mai, dici un po' di cosa ti fai. Alla situazione ti atteggi come un capo, rimani un coglione, parli un po' di tutto, tu non capisci mai, è proprio vero, non ti basta mai. Uno come te che non si fa bastare nulla, uno come te mi fa partire la molla, uno come te è vera una scintilla che mi fa capire che la gente ha una palla. Treno, fidati sei un mulo, sempre a chieder tutto, sei da calcio in culo. Non pretendi e non fai, poi non ci sei mai, e se le prendi poi non dire ai. Ma ci pensa la mattina quello che sei, zero fratto zero, io mi ammazzo. Chiedi, chiedi, chiedi, dici che non smetterai, saluta tutti i santi che vedrai. Uno come te, che non si fa bastare nulla, uno come te, mi fa partire la molla. Uno come te, e vedo una scintilla, che mi fa capire che la gente ha una